vai. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Runtime Radio presenta. Ehi, presenta, ma sta sempre a presentare, ma che cacchio si presenta? Ma che ne so, ma lascia fallo di bastica. Stiamo calmi, fatemi fare. Ehi ragazzi, un po' di calma, fatelo fare. OGM. Oddio, e mo come lo chiamiamo quest'anno? Signora, ma lei l'ascolta OGM? Oggi che? Ma che? No, no. Signora! E allora non mi volete proprio far lavorare? Questa non è OGM come la conoscete voi. Ma no? Ma che? Ah? Calla, guardavamo a finire. Ah? No. Questa è OGM Soc Media Edition. Ma Soc, ma che è stata stronzata? Soci che? OGM Soc Media Edition. Va bene, altra cazzata. Noi dotiet my box mia ciò. E basta con tutto sto casino. Ma la gente qua deve dormire. Ma non potete fare come tutti i ragazzi una volta che si drogano. No, devono mettere a fare radio il casino. E basta, no, basta. E sbardo. Buonasera carissimi amici di Runtime Radio, bentornati ancora una volta qui su OGM Soc Media Edition, come tutti i lunedì sera, tranne i lunedì sera nei quali non ci siamo. E proprio perché non ci siamo, l'altra settimana non ci siamo stati per motivi di infortunistica stradale, diciamo così, e questa settimana invece ci siamo, ma la prossima settimana non ci siamo, quindi però poi vi spiegavo tutto. Marco Gualdi, scusa, ma non ci arriviamo a essere stasera, la settimana prossima? Io perché sono qui? Per caso? No, perché questa sera ci siamo. Ma dobbiamo vedere spiegare stasera? No. No, quindi. No, dobbiamo fare OGM. C'è confusione, io non so capire più caso. Lo so, infatti è un po' un casino sta storia. E c'è Carmine Puccio Console. Programmazione variabile, ragazzi, programmazione variabile, perché noi siamo fluidi. Esatto, ci adattiamo. Siamo fluidi. Io, guarda, sei fluido stamattina è brutto, tra l'altro anche due o tre volte, anche piccante, quindi è stata una tragedia. E addirittura, pensate, ancora in vita Walter Sbano. Sì, evitiamo concetti, non parliamo di fluidi perché potrebbero essere infettivi. Esatto. Beh, i fluidi, sì, insomma, di solito sono sempre un po' cose ambigue. Ma non è in vita, è in vitro. È in vitro. Comunque, sì, praticamente sì, sono in condizioni praticamente tecniche, tecnologiche completamente precarie perché non posso raggiungere lo studio. Esatto, non può raggiungere nessuno dei due studi, diciamo esatto. Un po' le cose come stanno, perché poi in realtà state sentendo Walter in una modalità audio che di solito non gli compete, insomma, diciamo che è perché bisogna sapersi adattare a volte nella vita. Lo hanno fatto le radio più serie, figurate se non facciamo noi che siamo dei cialtroni, insomma. E comunque, benvenuti a questo nuovo episodio di OGM. Che cosa è successo? Perché la settimana scorsa non ci siamo stati? Non c'è stato OGM, diciamo che è la cosa più importante. Non c'è stata la reazione della sera. Non ci sono stati tanti speciali. Insomma, ci sono state tante cose che non ci sono state. Allora, io lo sapete, se quelli che insomma seguono, mi sono rotto un piede. Tra l'altro, mo so 10 giorni e devo dire che è abbastanza guarito, ma ancora non del tutto. Quindi, insomma, diciamo che. Però me l'avevano detto che la cosa sarebbe stata un po' lunga. E invece Walter ci ha avuto altri cazzi suoi, che se vuole lo dice, insomma, che però gli hanno impedito, come abbiamo detto, di andare in studio e quindi di fare la trasmissione, giusto Walter? Vabbè, niente di indicibile, diciamo che ho affrontato gli ultimi 10 giorni con una certa positività. Con una persona positiva, che tra l'altro. Una persona positiva. Pure questo non ti compete, no? No, esatto, non fa parte del mio modo di essere, però mi è toccato. Che poi la cosa bella, veramente, cioè, ragazzi, quando ti rendi conto di come quello che sembra una cosa ormai scampata, ormai schivata, ti distrai un attimo. Sabato sera al pub con un po' di amici, uno fa: oh, raga, io c'ho un po' di tinticherello, ma niente di che. di mattina su 5 persone in macchina, 4 positive al Covid. È stato un egatone. Anzi, quinto ha mentito, ovviamente. Esatto. Il quinto probabilmente ha mentito. Il quinto sta andando in giro. Ma ci ho pensato. Cioè, ma proprio tipo total party kill, vi ha beccato tutti. Esatto. No, però dai, devo dire che complici tutti i vaccini, complici il fatto che sì, probabilmente si è ammansuetito, tutto quello che vi pare a voi. Anche noi, un pochino, un minimo, se saremmo pure un po' pseudo-immunizzati, diciamo così. Mettici quello, fatto sta che, insomma, tolta la dovuta, doverosa profilassi di sicurezza, non ho sviluppato neanche mezzo sintomo, solo un pochino di congestione nasale, ma insomma, se non avesse fatto il tampone quell'amico il giorno dopo che siamo stati al pub e ci avesse detto, oh regà, sapete che c'è, io sono positivo, probabilmente nessuno di noi si sarebbe fatto il tampone, perché non abbiamo avuto motivi reali per sentirci male, però insomma. Tanto salutiamo Michela in chat, che stranamente ci sta ascoltando, perché lei a quest'ora di solito già... Ma adesso giustamente si addorme. Infatti, quando finisce la trasmissione io vado di là e si sente tutto quello che c'è dopo GM, quindi è bellissimo. Comunque, vabbè, dai, l'importante è che va tutto bene, sente un po' di muco nasale, come diceva il buon Lorenzo, insomma, no? Che se cerne su di noi. Esatto. Bravo, però per tutto il resto, insomma, invece tu, Gualdi, perché l'altra settimana non ci sei stato? Perché se non c'è nessuno di voi non ci sto neanche io. Giusto. Per politica di solidarietà. Esatto, bravo. È una questione. Penso che io sono venuto qui davanti. Tu non lo sai perché non c'eri. Sono qui davanti, sono persone del citofono e dire: ma no, non posso. E sei tornato indietro. Uscito perché sei uscito a buona volontà. Però devi considerare che l'altra settimana, se stavo seduto, penso che il pede mi sarebbe diventato gonfio il doppio praticamente, quindi insomma proprio evitato completamente. Poi dopo però alla fine venerdì sera ci ha preso la botta da matti e abbiamo fatto Runtime by Night, così proprio che dice, in virtù del fatto che insomma dopo una settimana e passa ci la facevo, diciamo, e quindi ce l'abbiamo fatta. Questo è stato importante. Invece Marco, prima di entrare nel vivo, insomma, sei arrivato alla quarta puntata del meraviglioso podcast, il meraviglioso mondo delle cose viste. Esatto, così insomma diciamo che sei contento, no? Sono contento perché ancora non c'è arrivata la denuncia di nessuno, quindi siamo contenti, speriamo di continuare così per sempre. Esatto. E invece questa settimana forse ritorna alle orazioni della sera, non so, ancora non lo sappiamo, siamo sicuri. Ma io mi auguro di sì, insomma, per sicurezza non ho messo piede quello che è il mio studio originale, dove ho lasciato mia madre a presidio di quella casa, e quindi ho detto: mo se ci vado la va a finire che la sdereno. Quindi hai fatto bene. Però, diciamo, domani farò un ulteriore tampone giusto per scrupolo. Ma la legge dice che già da più di 5 giorni sono libero di circolare, perché poi appunto, non avendo avuto particolari sintomi, anche 5 giorni dopo il primo tampone positivo, la regola di adesso ti permette di uscire, insomma. Però appunto, per tutelare i colleghi di lavoro, fino a che sono uscito di casa, perché non è, mi sono chiuso dentro, però ho evitato qualunque luogo chiuso, perché fino a che si tratta di andare di fare un giro, una passeggiata o comunque andare a comprare una cosa, invece magari vai a casa che magari c'è comunque una persona anziana, giustamente io. No, soprattutto usi lo stesso bagno, una cosa un'altra. No? Ma pure io avrei fatto la stessa cosa, insomma. Vabbè, quindi domani ci aggiorni, insomma, su quello che è. Io domani mattina farò, per la simpatia della cosa, mi filerò l'ennesimo tampone nel naso. Lo so. Ma dovrebbe dirmi che è negativo, insomma, è. E niente, dovrei andare anche a dare cenni di vita negli ultimi legami familiari rimasti, è vero. Giustamente. E invece, Puccio, tu il tuo podcast invece quando è che lo fai? Io sto traslocando, quindi... Sono 4 anni che c'hai questa scusa. Questa volta purtroppo è vero. Quindi. Tra l'altro, narrano di reperti scheletrici all'interno del... No? No, io in realtà adesso che stiamo facendo i cartoni, cioè stanno uscendo fuori dei libri improbabili dalle mie librerie, cazzo. Probabilmente, ragazzi, farò un giveaway prima tra gli utenti di Runtime di roba improbabile che ho trovato, che è venuta fuori e che può evitare di portarmi a casa nuova, così. Giusto per recuperare, per fare decluttering. Perché non c'hai affezione per questa roba? No, ma perché devo cominciare a separarmi da questi oggetti, altrimenti finisco come quelli delle serie TV sepolti nella monnezza. Sì, esatto. Queste cose. esatto, sei così esatto. allegra. Quindi. Mi raccomando, non mandare il Necronomicon a Gualdi, però. No, assolutamente. No, no, Gualdi è il Necronomicon. Quindi. Se, facci degli esempi, Puccio. Sono venuti fuori dei libri, diciamo così, a tema informatico dal contenuto abbastanza discutibile, soprattutto ora, insomma, col passare degli anni rispetto a quando li ho comprati. È venuto fuori un libro di Morozny che si chiama L'ingenuità della rete, che ho scoperto di avere in tre copie diverse, di cui una digitale. Perché te l'hai piaciuta così tanto? No, in realtà l'ho letto una volta sola e l'ho trovato una puttanata atroce, perché è stato, come dire, superato tantissimo dalla storia. Altra roba, tipo, scoperto di avere una copia in più, probabilmente perché me l'avevano regalata, di Inside WikiLeaks di Dominic Scheitberg, che parla del tramonto di WikiLeaks e di alcuni impicci che ci sono stati alla fine. Qualcuno ha pensato bene di regalarmene una copia, ma io in realtà me l'ero già comprato di mio. Poi che altro è venuto fuori? Una raccolta di lettere di Lovecraft, che avevo già in un'edizione migliore. Vi posterò una lista, non vi preoccupate. Vabbè, sì, io volevo un esempio, tu invece hai attaccato un pippone che finiva più, insomma. Però. Ma io posso continuare ancora a lungo. No, sì. No, ma immagino. Io invece, io devo fare una confessione prima di iniziare proprio la trasmissione vera e propria. Una confessione, diciamo, una sorta di outing, così. Perché in questo processo di trasformazione è vero che c'è stato questo incidente percorso, che è, però so che sto per dire una cosa che a voi vi potrebbe sembrare strana, anzi è sicuramente strana, e diciamo molti di voi potrebbero dire: ma che cazzo ce l'ha detta a fa'? Però per me c'ha un valore importante, perché oggi per la prima volta dopo tantissimi anni, e vi assicuro tantissimi anni, giro per casa in ciabatte senza calzini. Bravo. Un segno di maturità. Bravo. Questa... Ma perché non c'ha più i piedi? Praticamente. Dal passato, ragazzi. Voi pensate che questa cosa non abbia un'importanza? In realtà c'ha un'importanza, molta importanza. E allora, siccome che poi oggi Michele a un certo punto che fa, dice: vabbè, usciamo che portiamo lo Scozia a fare la passeggiata. E io non posso uscire senza calzini. Però non, a parte questo, che è una cosa che faceva ride, insomma. Simone, stai un passo dalle Crocs, dalle Crocs esatto. Alle Birkenstock, esatto. Però tutto sommato sono sensazioni che mi sono mancate, capito? Perché e il passo dopo, sai qual è? L'Hobbit, esatto. Direttamente a piedi scalzi, oppure andare in giro senza mutande, però non sei Superman. E a piedi scalzi, caro Gualdi, ci riporta a memorie di Berlino. Insomma, a Berlino il vecchio scalzo, sì, che provava a riporchiare Giuseppe Saso. Senza successo. Ferma che non metterei più i calzini e le scarpe. Ormai sei francescano. Sono francescano. No, francescane. Vabbè, perché prima sono uscito. Francescane e Scozia. Francescane. Quelli sono i dominicane. Dominicane. che molti non se ne sono mai accorti, no, ma in realtà è una bestemmia. No, assolutamente. Comunque, vabbè, ragazzi, allora è successo. Io, diciamo, lunedì prossimo noi non ci siamo perché facciamo uno speciale tutto dedicato a questa questione delle intelligenze artificiali da un punto di vista morale, etico, tecnico, tecnologico, ma soprattutto ovviamente cercheremo poi di concentrare un po' l'attenzione su quello che è il tema di questi ultimi 3-4 giorni, ossia il fatto che il garante in Italia ha bloccato ChatGPT per tutta una serie di mancanze, chiamiamole mancanze, insomma. Intanto qualcuno sta prendendo a cazzotti il microfono, state sereni, state non lo so, però posso fare la bucca allo stronzo? Sì. Il garante non ha bloccato ChatGPT, il garante ha chiesto dei chiarimenti, cioè GPT piuttosto che dare chiarimenti ha preferito si è autobloccato, vabbè, sì, ok, comunque in un certo senso quello che esce fuori, insomma, è il fatto che chiaramente questa situazione ha creato, diciamo, una sorta di precedente, ne ha parlato Walter Vannini in già diverse puntate, in una puntata nello specifico in Data Nightmare, è uscita oggi la stessa medesima puntata in inglese, ovviamente sempre sullo stesso tema, pare a grandissima richiesta, perché insomma era appressava questa, no, dobbiamo far uscire la puntata in inglese, e vabbè, facciamo uscire la puntata in inglese. Quindi insomma di questo tema ne parleremo la prossima settimana in maniera più seria, ma oggi noi non possiamo far finta di niente, perché al di là della cosa in sé, che è abbastanza un po', insomma, chiaramente è comunque abbastanza eclatante, quello che ci ha fatto molto sorridere è il fatto che la gente, molta gente, invece di preoccuparsi di capire il perché, il per come di quello che sta succedendo, anche gente di cui non gliene fregava un cazzo, e secondo me non gliene fregherà un cazzo neanche domani, o che magari non sapeva ieri che cos'era il chatbot di OpenAI, e probabilmente dopodomani se ne fregherà completamente, se ne sarà dimenticato. La vita, scusa Pizzi, ma uso di chatbot, che c'è gente che con i chatbot prova di rimorchiasseli, esatto, i chatbot. Esatto. Quindi vabbè, quello senza, però, saperlo, però dai, insomma, alla fine gente di cui se ne fregava prima e se ne fregherà domani, tutti su YouTube a fa un po' sponsorizzati, un po' non sponsorizzati, perché alcuni proprio lo fanno proprio con convinzione, tutti a cercare di far capire in che maniera si frega lo Stato italiano, perché poi il concetto che esce fuori da tutta questa storia non è il fatto che c'è il, diciamo, il garante che ha fatto delle evidenze, diciamo, nei confronti di OpenAI, ma quello che esce fuori è che lo Stato italiano, censore e cinese, praticamente ha bloccato ChatGPT, e praticamente noi dobbiamo fregare lo Stato, e quindi tutti a fa, ah guarda, pure io ho visto veramente, anche Puccio, tu mi pare che su Twitter hai fatto vedere qualcuno di voi due, insomma. Io Sì, no, Walter, ma io gli ho messo i like al massimo. Esatto, cioè nel senso che sta tizia, che mo io non la seguo, non so chi cazzo è, ce lo dice adesso. È un giornalista, e questa è la cosa divertente. Esatto, ce lo dice, ma poi, cioè, poi magari ci spiegherai. Madonna, se che cosa ho appena visto in diretta, scusate. Walter, provate ad aprire Twitter. Ma non c'era più quella cosa del cane? Il Doge di... Non l'ho ancora capita, ma sì. Tanto non ci puoi cliccare, quindi... Comunque, vabbè ragazzi, è uscito scemo Elon Musk di nuovo. Sì, comunque oggi sta a proprio il trollone ai massimi livelli. Vabbè, comunque, insomma, diciamo che non so sta giornalista se ha già parlato di questo argomento prima o dopo, però come lei l'hanno fatto in tanti, fino ad arrivare addirittura, e vabbè, lì posso capire che c'è una motivazione, perché diciamo che l'ha presa un po' di traverso, no? Perché oggi io mi sono visto il video uscito di Barbascura X, che parlava del famoso orso che è morto. Coglielorso. Esatto. Tra l'altro un video divertentissimo, come sempre lui ovviamente è geniale, però lì in mezzo, ovviamente, tra la pubblicità di NordVPN, che oramai è praticamente immancabile sui... Ha rotto il cazzo. Sì, diciamo sui influencer di un certo rilievo. Lui poi ha detto: sapete poi questa storia, no, del fatto che non è più accessibile ChatGPT in Italia. Ecco, insomma, non ve lo devo spiegare. Questa cosa mi ha. Sapete che io non sono uno incline al mai deluso, ma. Però insomma devo dire che. Pensavo alla bestemmia, sto dicendo, ma Simone. Sì, diciamo che. Sì, se ce l'avessi avuto davanti, avrebbe stimato. Perché insomma. Cioè, non prendi posizione su questa cosa, e posso capirlo, no? Cioè, da un certo punto di vista tu cerchi di tutelare quello che è il che ne so, la tua utenza, il fatto che comunque tu con quello un po' ci campi, diciamo così. Però allo stesso tempo, non prendendo posizione, se fai pure l'ammiccamento, mi stai poi sul cazzo, perché sei pure una persona intelligente che comunque a volte prende anche posizione, no, su certe cose. È uno che comunque non è che si tira indietro se deve esprimere una considerazione. Quindi questa cosa devo dire che mi ha abbastanza scoglionato. Ecco, facciamo un attimo, Walter, partiamo da te, facciamo un po' un recap di tutto quello che è successo, e cercando di capire anche tutto sto casino che si è scatenato durante questi due o tre giorni, per motivi sbagliati, perché la gente secondo me non sa né il motivo né sa che cosa sta facendo, però lo deve fare per forza. Cioè, intanto partire da un punto: ci siamo resi conto, anzi non è un'affermazione ma in realtà dovevo enfatizzare la domanda, ci siamo resi conto che siamo praticamente un sottobosco di morti di figa artificiale? Perché la gente si è sentita privata del nuovo giocattolo, ha reagito in una maniera scomposta. Ora, probabilmente ne parlavamo nelle nostre chat interne di organizzazione, forse ogni tanto si parla anche con Carlo Sant'Agostino, no? Di quelli che sono le percezioni nei, ovviamente nelle rispettive bolle di determinati fenomeni. Probabilmente le nostre bolle, anche un po' condivise, hanno sempre a che fare inevitabilmente col tema dell'informatica, e quindi di conseguenza ci sarà una percentuale di utilizzatori di tecnologie di vario tipo, inclusa ChatGPT, più ampia della media reale, no? Della vita dell'uomo della strada. Però ragazzi, gente che normalmente, insomma, anche abbastanza preparata dal punto di vista informatico, gli hanno tolto ChatGPT, sono sbroccati tutti a trasformare un provvedimento del garante che non hanno voluto approfondire e che non hanno capito nell'ennesima dimostrazione del fatto che abbiamo un governo fascista e censore. Cioè, se c'è, quello è vero, ancora però... è probabilmente no, aspetta, se c'è ancora uno, l'ultimo istituto pubblico, che in questo caso è il garante per la privacy, che ancora non è sotto le mani di questa attuale maggioranza di governo, è il garante privacy, l'unico che si salva ancora. Beh, lo sono andati a trattare come se fosse stato Salvini a prendere quella decisione, capito? Senza entrare nel merito, e questa è la cosa divertente, tant'è che poi a un paio di persone che ho preso un pochino più di petto, perché so essere comunque persone dotate di raziocinio e di capacità di discernere, quando poi gli ho linkato vari contenuti, soprattutto il podcast del buon Walter Vannini, che hanno ascoltato, finalmente hanno capito qual era il problema, hanno detto: ah, scusa, c'hai ragione, hai ragione al 100%, non avevo capito. Sì, in effetti, vabbè, poi dopo delle argomentazioni, no, magari dei contenuti di questa questione, poi ne parliamo appunto lunedì prossimo, lo ricordiamo, lunedì prossimo ore 21:30, sempre qui su runtimeradio.it al posto di OGM. Il problema di fondo è che ovviamente io capisco che adesso è anche un po' l'argomento di moda, no? Quindi quando l'argomento è di moda, a prescindere dai valori, dai contenuti, dai principi e via dicendo, la gente deve comunque mettere... Come dici tu, cioè nel senso, improvvisamente c'è stata sta questione, quindi in Italia non era accessibile ChatGPT e pare che la gente gli hanno levato l'acqua, gli hanno levato l'acqua dentro casa. Poi gente che secondo me neanche lo usa, perché famo se capisse, capisco che adesso è l'argomento, ma oggettivamente, cioè che cazzo ci face, cioè non è che stai tutto il giorno su ChatGPT a parlare con ChatGPT, cioè voglio dire, no, oggettivamente, no? Poi qualcuno mi ha fatto notare che i ragazzini ci facevano i compiti. Ah, ti pare poco. Cioè, allora, secondo me il garante, cioè, nel senso, non doveva fare delle domande, doveva proprio farlo veramente lui il blocco. Cioè, nel senso, però, questo è il discorso. A me mi fa veramente incredibile come quei giorni che capita che cadono tutti i server e la gente non accede a Facebook, il panico. Tutti che cominciano a telefonare a tutti, ma a te funziona Facebook? Cioè, proprio che non si capacitano. Però quello oramai è diventata una cosa talmente consolidata nel comportamento della maggior parte delle persone che, vabbè, lo posso pure capire, non lo condivido, non lo posso pure capire, ma ChatGPT, che fino all'altro ieri non sapevi che cazzo era, cioè, e che oggi, cioè, giorno dopo sta cosa del blocco, la gente stava lì drogata, stava così, ah, io. E pure da noi, no, pure su Runtime Radio ci sono state polemiche, cose, perché ovviamente c'è, sai, chi... che secondo me qual è il problema? Che questa gente pensa che dall'altra parte ci sia un essere senziente che è stato bloccato, è stato imprigionato. Ah, quindi c'è una censura, me, no, censura. C'è una censura di un essere vivente artificiale. No, secondo me, a questo punto, secondo me la gente non si rende più veramente conto. La gente non è così altruista, Marco, la gente si fa rodere il culo perché si sente privata di un privilegio. Cioè, io stavo lì a passare il mio tempo a fare in maniera più o meno futile qualcosa e tu mi hai impedito di farlo quando il resto del mondo, dell'umanità, può continuare a farlo. Beh, non c'entra, no, che quella sia la stragrande maggioranza, che poi voglio dire, alla fine c'è Bing, andate su Bing, ragazzi, cioè sì, si può usare così, però ragazzi, cioè io cioè, oggi l'ho usato Bing senza nessun problema, perché volevo dire, stavo a fare comunque degli esperimenti per vedere, anzi gli volevo proprio chiedere che cosa ne pensava del provvedimento del provvedimento del garante, ma poi sai che non esprime. Tra l'altro c'è anche una sottile e importante differenza nel modo in cui Bing esternalizza, diciamo, quindi l'output che lui ti dà praticamente rispetto a quello che faceva ChatGPT, che veramente nel caso più eclatante, ovviamente lui cerca veramente di emulare, no? E parla di se stesso come di intelligenza artificiale, mentre che Bing si presenta come assistente virtuale e da tutte le fonti dalle quali lui prende le informazioni. E quindi diciamo che da un certo punto di vista politico e anche, diciamo, comportamentale, etico, diciamo che ci prova almeno a dare una formalità, no, a un certo tipo di comportamento. E invece ChatGPT non ci provava neanche, cioè, nel senso, da questo punto di vista se ne frega completamente. Vabbè, il suo scopo è quello proprio di inculare la gente, cioè, ma me pensa che sia una persona, tu vuole curare me? Tu, esatto, me, ma a me la cosa che mi sconvolge profondamente è che la gente si è attaccata, avvelenata a fare dei moralismi, quando in Italia si stanno facendo dei provvedimenti tra virgolette omofobi dal punto di vista istituzionale, che ci dovrebbero quelli turbare e creare comunque un senso di inquietudine rispetto a quella che è i comportamenti liberticidi. No, il fatto che ChatGPT per non risponde al garante blocca i server, e allora, perché poi cioè questi qua sono arrivati proprio a sto livello qua, capito? Cioè io mi porto via il pallone. Sono arrivati. Sì, no, la cosa inquietante, Simone, è che siamo nelle ultime settimane veramente ci stanno facendo catapultare nel medioevo più fascista de sempre. Esatto. Al di là di tutte le leggi contro le famiglie arcobaleno, contro le famiglie omosessuali, eccetera, che quelle già sono gravissime. Ma se andiamo a vedere, stanno a fare delle cose talmente ridicole anche nel piccolo, a cominciare per esempio da questa cosa di multare l'uso inappropriato dei forestismi, degli anglicismi, quando si potrebbe usare la lingua italiana nel settore pubblico, con multe fino a 100.000 euro. Cioè, un governo che... Sai chi è che aveva applicato sta legge nel suo tempo, no? Cioè. Appunto. Ora, un governo che... A parte la Francia ultimamente, però... I francesi ce l'hanno sempre avuta sta cosa, noi sta derivazione ce l'abbiamo avuta solo nel periodo di Mussolini, quindi hanno culturalmente quella di trasformare nella loro lingua qualunque termine. No, ma loro per legge proprio ce l'hanno sta cosa, non possono utilizzare soprattutto su... Comunque pure in Spagna è così, cioè nel senso che da una parte non è sbagliatissimo sta cosa, sì, però perché... oggi allora lo pensavo anch'io questa cosa. Sì, allora, ma conto usare una parola ogni tanto, e conto è ciò, perché il trend del mio business è vero, su questo io devo dire un po', è anche vero, perché che tu comunque all'interno di meccanismi di pubblica amministrazione dove hai a che fare col cittadino, e non tutti possono essere allo stesso livello, oramai si usano delle terminologie veramente anche a cazzo di cane, diciamoci la verità, perché questo, cioè io non sono assolutamente contro gli inglesismi, sono contro l'uso indiscriminato a cazzo dei cane, che secondo me è una cosa che insomma andrebbe un po' ridefinita, no? Però da qua arriva a fare le multe per 100.000 euro perché è usata la parola inglese invece che quella italiana. Però diciamo, posso dire chi paga per il ministero del welfare e del made in Italy? Hai capito? Esatto. Perché chi cioè, pagiamo noi? Sì, soprattutto se sei un underdog, come disse la nostra Presidente del Consiglio autodefinendosi con questo termine completamente italiano. Ma sottocagna, che significa? Non so, vuol dire per un outsider, una roba del genere. Okay. Comunque ragazzi, posso fare un'osservazione non stupida? No. Spero. Non puoi, che no. Mi è venuta fuori l'altro giorno. Stupida adesso, se no non la fai. Se non è stupida, non è stupida. Non stupida, è un po' strano di solito, però... No, in realtà mi è venuta in testa mentre parlavamo di Carlo. No. No, quando diciamo che Carlo spesso ripete, ha ragione, che il settore dei videogiochi in Italia è stato azzoppato da delle scelte legali discutibili, sì. No? Il fatto, ok, io il problema è ChatGPT per tutti quelli che l'hanno usato per fare i compiti, per chiedergli che cazzo ne so, mi racconti la trama dell'ultimo film porno di Malena, ok, quella cosa la capisco. Il problema è che se quello strumento e altri simili, a me parlo proprio per addetti ai lavori, pensate a chi usa Copilot di come, come plugin per la programmazione. Se quello strumento tu all'Italia lo blocchi, permetti a una serie di altri sviluppatori che stanno in altre nazioni del mondo, che questo blocco non ce l'hanno, di sorpassarci a destra senza possibilità di recupero. Quindi va bene, cioè è giusto che la cacata l'ha fatta ChatGPT perché a una richiesta di chiarimenti ha risposto con un blocco. È ok, però è pure vero che se esistesse, come dire, un binario differenziale, tipo alle aziende che fanno sviluppo le sblocchi, a quelli che stanno a fare i cretini, aspetta, a scopo Puccio, didattico. Puccio, dimmi. Il garante è intervenuto solo ed esclusivamente su ChatGPT inteso come front-end per chiedere chiarimenti sul trattamento dati. Ti posso dire che chi sta facendo sviluppo, le AI funzionano tutte. In realtà chi ci sta lavorando come partnership con OpenAI in Italia sono arrivate in questi giorni delle mail dicendo che stanno seguendo l'evolversi della situazione legale perché non sanno se anche quelle sono congruenti con le normative locali. C'è un altro problema: siccome il GDPR non è una legge italiana, ma è più o meno uguale in tutta Europa. No, ma infatti, si sta ma infatti, infatti vedrai che questa cosa si ripresenta. Capito, però il problema è che adesso noi abbiamo aperto, cioè per la prima volta, tappato il vaso. Ragazzi, ma certo, è senza più o meno. Il GDPR è un regolamento generale europeo. Quindi, cioè, non è solo un problema nostro. Siamo stati i primi, gli altri ratificheranno. Esatto, per la prima volta l'Italia si è posta questo problema prima degli altri, e questa cosa ovviamente ce la una rilevanza europea. Il problema non è il fatto che tu fai scusa Simone, se siamo stati i primi, è capace che questa volta l'Europa ci dice ma che cazzo hanno fatto gli italiani. No, capiscono un cazzo. Ma che cazzo, va a far culo. È la prima volta che siamo i primi, tipo con la carne sintetica di recente. Ah sì, mamma mia. No, ma un'altra cosa che va detta è che fondamentalmente il garante non è che ha detto dovete rifare il servizio, è entrato nel merito di chissà che cosa. Ha semplicemente detto ragazzi, mettete nero su bianco il trattamento dei dati personali che fate e le finalità. Non è che gli abbia chiesto dateci i codici sorgenti di OpenAI. Sì, sì, no, vabbè, ma infatti, cioè, ragazzi, qui ci sono dei problemi seri. Cioè, io entro dentro ChatGPT e ChatGPT non mi chiede niente, fondamentalmente. Non mi chiede neanche se sono d'accordo a usare determinati termini di servizio. A malapena sa chi cazzo so. E quando io gli chiedo, mi dici che cosa sai di Simone Piripilli dei 14 anni? E lui va a cercare informazioni di Simone Piripilli dei 14 anni, senza che nessuno abbia comunque consentito di utilizzare determinate informazioni, i quali lui rastrella indiscriminatamente, soprattutto rastrella informazioni che sono state tra l'altro create come contenuti all'interno di determinati siti che con quei contenuti ci campano. Allora, quando io vado su YouTube e metto una cosa che è una violazione del copyright, te rompono il cazzo. Però poi quando si tratta di fa quello che cazzo gli pare a loro in maniera indiscriminata, nessuno gli deve di niente, perché sennò se lo portano via il pallone. Allora, su questo diciamo che al di là del discorso che stanno a spingere una cifra sul fatto della guerra in Ucraina perché dovevano essere amici da americani, però secondo me qui l'Europa si deve veramente mettere traverso su questa storia. Su questo c'ha ragione Walter Mannini, cioè se vogliamo averci un'indipendenza da sti cazzo dei quattro stronzi, che poi tra l'altro a me la cosa che mi fa veramente incazzare è che loro decostruiscono una narrativa, la gente ci crede e quindi la gente diventa veicolo pubblicitario a sbavo e a gratis di tutta sta merda qui, comprese, cioè, le persone come quelli che durante questi giorni ci stanno a fare tutta la pippa che noi siamo come la Cina o roba del genere. Ma, cioè, ma noi abbiamo fatto delle domande per capire dove stavano dei problemi e quelli che hanno chiuso, noi siamo la Cina. Cioè, questa sì, è. Sì, ma siamo al ridicolo. Dai, su, questa è la visione ipercapitalistica del padrone, del più potente, tu che sei il tizio che si nasconde dietro al più potente, che secondo me dentro la scuola, quando eri quello che faceva la spia ai professori, cioè diciamoci la verità, cioè la gente che difende a spada tratta sta cosa, senza capire qual è il problema, cioè, capisci? Cioè, nel senso, c'è un problema. Perché non è che poi, cioè non è che uno la mattina si sveglia e rompe il cazzo ChatGPT, cioè alla fine anche sti cazzi, no? Ma io lo facevo sempre. Ciao, come stai? Mi racconti una storia dell'orrore? E lui mi diceva che nel castello c'era questo castello. vi invito ad ascoltare la puntata di venerdì di Runtime by Night, ragazzi, perché ci siamo molto divertiti con ChatGPT, ovviamente. Che adesso purtroppo non tramite. No, abbiamo usato Bing, quindi abbiamo. Purtroppo, però Bisogna protestare, Pizzi, perché ci ha tolto ChatGPT, non c'è più adesso. Ma a me poi veramente non me ne frega un cazzo. Il garante ci ha tolto ChatGPT, proprio lui di persona è sceso in campo. Ce l'ha tolto. A noi, per farci un dispetto a noi, capito? Che poi io prima non sapevo come fare e adesso non saprò come fare nel futuro, insomma, cioè, onestamente. È tipo leggere i libri. Ma i libri non ti rispondono. Studiare. Ma non esempio, ti rispondono, no? Cioè, se tu fai una domanda, il libro non ti risponde, come fai? Ma poi a me mi sta anche bene. Cioè, per esempio, Bing, secondo me, sta utilizzando in maniera intelligente sta cosa. Ovviamente anche lì ci sono tutta una serie di cose che andranno comunque in qualche maniera sistemate. Però a me mi sta bene che tu fai un motore di ricerca intelligente che si pone come motore di ricerca, non si pone come persona che ti sta rispondendo tramite l'intelligenza artificiale, capito? Allora quello mi sta bene, perché io dico, voglio fare una ricerca, ti chiedo specificatamente questa cosa. E lui sbrate, vomita tutto quello che. E lui no, lui fa un. Cioè, diciamo che incastona l'informazione in una certa maniera e te le sottopone. Poi lui dice: ti è stato utile? Sì, no, capace pure che non ti è stato utile, perché però, insomma, sta pure. Allora vaffanculo, ti dice. Allora vaffanculo. Vabbè, comunque, dai, ragazzi, io penso che. Insomma. Penso che questo sia il tema poi della prossima settimana, di questa settimana. Immagino che anche di Walter, se poi durante questi tre giorni ci saranno, insomma, le orazioni della sera, perché come fa a non parlarne di questa cosa? Cioè. Guarda, vediamo, oggi ho avuto un sacco da fare per lavoro, quindi non ho percepito, non ho annusato se se ne sta ancora polemizzando, non ho idea. Però ieri veramente non si parlava d'altro. No, ieri non si parlava d'altro, e tra l'altro. No, ma non nel modo sbagliato, perché chiaramente se non capisci qual è il problema sarà necessariamente nel modo sbagliato. È proprio con quel fervore, capito, che dovresti dedicare a problemi molto più seri, tipo alle decine di persone che muoiono in mezzo al mare, cioè, vuoi dire, ai ragazzini, alle madri incinta, cioè, non è per ritornare sempre sullo stesso tema, però regà, noi stiamo a fare da una parte, cioè, allora, questa cultura ci ha talmente desensibilizzato, ci preoccupiamo più di quello che ci tolgono piuttosto di quello che togliamo noi all'altri. Non ce ne frega proprio più un cazzo. Questa è la cosa, questa è la mentalità della società di Apple, no? Dove tu fai pubblicità per loro. Dove ci stanno queste persone che super invasate, che non parlano di altro, di quello, piuttosto che di quell'altro, perché l'hanno fatto quelli, no? Cioè, poi, so, se vi ricordate su che Iron Sky 2, che tra l'altro il film di per sé è una porcata. Il film purtroppo. Brutto. Il film purtroppo è una porcata. In confronto al primo, che era sicuramente meraviglioso, però c'è sta cosa della chiesa, no? Tra l'altro ci hanno anche rubato l'idea, cioè, parliamoci chiaro. Non è che era tutta sti idea, un'idea. Ci hanno rubata, insomma, vabbè. E c'era la chiesa del Sacro Pomo. La chiesa del Sacro Pomo, che insomma è così, dai, raga, cioè, di che cazzo stiamo a parlare? Poi non lo so, sono abbastanza non turbato, perché poi alla fine me l'aspettavo, cioè, nel senso. Però comunque, Simone, io vorrei lanciare un appello. Vai. Visto che molto probabilmente sarà il tema della settimana, appunto, inevitabilmente anche su Runtime Radio, qualora NordVPN ci volesse sponsorizzare, noi siamo disponibili. Basta che ci mandino un'email a runtimeradio@gmail.com e ci mettiamo d'accordo. Io sarei anche d'accordo, perché tutto sommato, per curiosità, una VPN io me la smanetterei anche, cioè, per senso, poi giocare con ChatGPT. Esatto, certo. Ma io lo faccio già, capito? Ci c'ho Bing, ormai sono. No, vabbè, ma tu non, allora, c'hai, guarda, l'ultima versione. Una dritta. Tu hai un account, tu hai l'account Google Drive a pagamento, giusto? Sì. Sì. Ok, anche nel profilo economico da 2 euro al mese. Google ha aggiunto il servizio. Che 2 euro? 9,99? Che 2 euro? 9,99? Oh, a maggior ragione, quella 9,99. Hai anche il servizio di VPN, se proprio vuoi provare l'ebbrezza di uscire da un IP che non sia il tuo. Ma dai, insomma, che figata! Dai, adesso andiamo tutti a vedere Netflix da Corea del Nord. Ma pure del se Nord. Scaricate 1.1.1.1 di Cloudflare, avete la stessa possibilità. Sì. Oppure se vi prendete un vostro VPS piccolo da 3 euro al mese, vi fate WireGuard, così uscite con l'IP della VPS. Vabbè, poi ve lo Però, sì, però solo con quello. Mi viene quasi quasi la voglia di fare una puntata di Security Corner. Mortacci tu, ma te vergogni, cioè. Sì, ogni spesso, Security Corner devi fare, no? Esatto. cazzo Security Corner. Questo. No, ma scusate, c'è qui mio figlio Pietro. Sai fare una VPN con WireGuard tu? Sì? Sì. No. Ok. No, io no, sentivo solo tipo zombie. È perché gli sta togliendo l'adenocromo. Quindi esatto, può fare esatto. Se si muove è un macello. Dove sta l'adenocromo? Grazie. Ha fatto un giocattolo. Ecco, è perché il giocattolo è intriso di adenocromo. Di adenocromo. Adesso tu lo lecchi. Tra l'altro, ridendo e scherzando, ho visto proprio l'altro giorno, mi è capitato un post, non so se l'avete condiviso voi, perché io poi, cioè, io purtroppo guardo tutto di sfuggita, di gente che ancora veramente, cioè, pensa a questa cosa dell'adenocromo, cioè. Ah sì, quello della carne sintetica l'avete fatto voi, non lo so, qualcuno sa, dice, l'ho visto anche io. Avete fatto la carne sintetica, allora perché non fate pure l'adenocromo sintetico invece di torturare i bambini? Ma io penso, perché ma veramente, ragazzi, c'è sta gente che ci crede sul serio, cioè. Sì. Sì. Io no. Certo che c'è gente che ci. Bisognerebbe fare una puntata dei morti delle bestemmie, cioè esulare anche. Quello che chiamiamo adrenocromo. Esatto, esulare anche dagli schemi di OGM. Morti adrenocromo. Esatto, proprio andare proprio a giù come facevamo una volta, come i fabbri proprio. Comunque, sì. Ragazzi, a proposito di carne artificiale, mi avete fatto venire in mente una cosa: che il famoso sabato sera dell'unzione, quando fui trafitto dal demo del Covid. Al pub dove sono stato con degli amici, tra l'altro anche molto buono, a Guidonia, e ho assaggiato la carne artificiosa. Ti è piaciuta? Guarda, se non ti dicono che è artificiale, tu non senti la differenza, perché di fatto è carne. Non è come, sai, quella derivata dalle proteine, dai piselli, eccetera, che comunque ha una consistenza diversa per quanto ti voglia immedesimare. Certo. Ma quella è carne, tutti gli effetti. Quindi non lo sai, che certo non avrà il sapore di un hamburger di scottona di alta qualità, però è un hamburger. Ma d'altronde tocca pure adeguarsi se vogliamo salvare qualcosa, insomma. Esatto, ma tra l'altro risolveremo almeno in parte il problema degli allevamenti intensivi. Io sono carnivoro, non faccio il vegano o il vegetariano perché non lo sono, però se ci fosse un modo etico di ridurre vero. Il consumo di carne animale, ma cioè, anzi, visto che c'è, perché questo lo è, non vedo perché, cioè, solo un cretino come un ministro italiano può pensare che questa cosa, invece di essere sviluppata, vada vietata. Perché in Italia c'è questa cosa che se tu metti un cibo qualsiasi nuovo in Italia, hai automaticamente distrutto tutta l'economia dell'agroalimentare italiano, perché evidentemente hanno poca fiducia. Cioè, se tu metti una carne sintetica, ma certe cose non le capiscono proprio. Ma infatti, cioè, tu. No, ragazzi, quanta conoscenza c'hai del tuo agroalimentare? Se tu pensi che arriva un cibo che potrebbe essere sintetico, potrebbe essere anche un kebab del cazzo, e tu pensi che tutta quanta la filiera viene come tu febbre, viene distrutta, viene messa in crisi. Sintekebab. Il punto è lo stesso casino che stanno facendo esclusivamente gli italiani in confronto alla transizione dai motori endotermici a quelli elettrici. Per stare al passo coi tempi con queste innovazioni bisogna investire. Gli italiani non vogliono investire, ma vogliono continuare a campare di rendita con gli investimenti che hanno fatto un secolo fa. Creare il mercato italiano della carne sintetizzata implica investimenti. Trasformare le linee di produzione da motori endotermici a quelli elettrici implica investimenti. Non li vogliono fare. Avere la fibra ottica a 2 gigabit delle case della gente significa passare dal RAM alla fibra ottica, che sono investimenti. Non lo vogliono fare. Ci vogliono invece continuare a campare su quello che già c'è. Sì, questo è l'unico modo. Sono d'accordo. Per farlo è cercare di denigrare il progresso con una scusa. Dice: no, ma questa cosa fa schifo. Noi abbiamo quella della nostra tradizione, non si tocca. Stai dando un valore veramente basso alla tua produzione. Se pensi che un'altra, che una cosa sintetica o artificiale, o quello che è, possa metterlo in crisi, è una cosa in più. Mettere in crisi, Marco. Aspetta, la deve mettere in crisi, cioè deve cambiare il sistema. Cioè, questo è il problema. Il discorso mio è un altro. Se tu metti una cosa, metti un cibo in più, che non è, potrebbe a anche tavola, essere, che c'è potrebbe amico, anche che c'è essere, un amico in più, che potrebbe anche essere il kebab, che potrebbe anche essere la cucina giapponese, ma quelle non ti mettono in crisi diciamo l'agroalimentare italiano, se vuoi. Che cazzo mi rappresenta? Cioè, comunque è un tipo di cucina diversa. Allora, qui è un problema molto globale. Cioè, diciamo che da un punto di vista della costruzione dell'industria alimentare italiana, per tradizione anche, per come posso dire, per caratteristiche locali, noi abbiamo praticamente tutta una serie di realtà che campano sulla carne bovina, maiale. Okay. Ci continuano a campare. Il problema è che questa cosa, pur capendo il sacrificio dal punto di vista della tradizione e anche della qualità, questo sistema deve cambiare, non potevamo andare avanti così, cioè, ma sì, perché è lo stesso motivo per cui stiamo a distruggere tutta la foresta amazzonica, perché l'americano ci devono mettere l'hamburger, cioè. Ma tu ci continuerai a campare con questa cosa? Secondo me devi semplicemente cambiare, cioè, se tu allevi mucche, le ammazzi e le vacelli, sei in grado anche di costruire una struttura che possa costruire, che possa creare quel te costa, carne te costa in anche maniera diversa. Mantenerla. Però quello che ti dico è, comunque, tra l'altro, non magari l'investimento iniziale c'è. Non, c'è, è, perché, non è una cosa che oggi la metti e domani stanno tutti per strada. No, no. Anche perché la gente continuerà al 90% a prendere la carne normale. Poi piano piano nel corso degli anni. Ma sai che non, ci sai che non lo so, perché secondo me questa generazione è più educata rispetto questa agli generazione altre. Sarà più o meno un terzo dell'Italia. Lo so, quindi, lo so, però l'altra è la generazione che sta sopra i 50. Però è la generazione che alla fine si abitua, perché ti dicono: "Ah, oh, che schifo", ma poi alla fine se c'è quello te magni, ma non lo per ci caso. Sarà solo quello, ed è anche giusto, perché non ti stanno dicendo lo soppianteremo completamente. Sì, sarà una cosa in più, però discorso, piano piano. Il discorso che fa Walter è giusto, perché nell'insieme, se tu non inizi a costruire una transizione, non ti dico c'è un abbattimento totale, quindi una costruzione totale cambiata, anche perché è graduale, certo, ma c'è gente che la farebbe. se tu non inizi a fare gli investimenti, noi investimenti non li vogliamo fare, perché comunque ci fa comodo così, volemo, cioè noi siamo il paese che mettiamo le regole per gli apparti e poi a un certo punto, dato che agli imprenditori quali del nord-est, appunto, dato che agli imprenditori adesso le abbiamo tolte tutte, esatto, gli imprenditori del nord-est gli stanno sul cazzo perché devono andare a fare i sciacalli a destra a manca, poi li togliamo, perché cioè questo è il vero problema. Poi dopo, però, quando ci troviamo nella merda e siamo arrivati al limite estremo oltre il quale non possiamo più tornare indietro, tutti i soldi che vi siete guadagnati ve li schiaffate nel bucio del culo, perché dopo non vi serviranno un cazzo, perché come moriranno i nostri figli, moriranno anche i vostri figli. Ma dopo, speriamo che i vostri figli muoiano prima. Insomma, dopo, diciamo, non sarà un problema per loro. Cioè, comunque stai lo so, a pensare. Però io non posso pensare che ci sta gente che non pensa ai propri figli, ai propri nipoti, perché comunque lì devono... Hanno abbastanza soldi da campare ai propri figli. Poi i nipoti sti cazzi. È un bunker antiatomico. Sì, vabbè, regà, ma che cazzo... Ma che ci fai col bunker antiatomico? Mi avete fatto pensare a una volta che mi sono fatto veramente volere bene durante una conferenza. Su cuore? Sì, sì, no. Di persona, eravamo a una presentazione di una serie di prodotti fatti dalle scuole, come dire, degli istituti tecnici della provincia di Bari, e a un certo punto è intervenuto, tra le varie aziende che erano presenti, diciamo l'amministratore delegato, se ricordo bene, di un'azienda locale che si occupa di autotrasporti. Boh, non vi sto a fare il nome, che a un certo punto ha detto: ora stiamo soffrendo molto e licenzieremo del personale per colpa di Flixbus, perché ragazzi, ve lo dico chiaramente, noi non possiamo combattere contro un algoritmo. Io ho alzato la mano, ma questo momento, sì, mi dica, ho fatto: guardi, lei non deve combattere contro un algoritmo, voi dovevate investire dei soldi per avere un algoritmo migliore di quello di Flixbus. E quindi ti hanno voluto questo bene. Mi ha guardato, ha detto: ma noi non ci occupiamo di informatica. Gli ho risposto: sì, neanche quelli di Flixbus si occupavano di informatica all'inizio, hanno investito in quella roba e ora hanno un risultato che gli permette di andare nel culo a voi, e quindi ve lo siete meritato. Forse è questo che non gli è piaciuto, la cosa del culo. Sì, no, vabbè, non ho usato questo termine, però è usato, diciamo, usato la storia del culo non gli è piaciuta, insomma. Vabbè, comunque sì, io mi ricordo al Festival Internazionale del Giornalismo a Perugia con Sonia Topazio, stavamo a una conferenza della Boldrini. Sì, io sono sempre trovata una persona intelligente, però una di quelle persone che, dopo che incanalano il discorso in un certo binario, se tu comunque glielo spostichi, diciamo così, dice, ma non puzza, capito? Cioè, e poi alla fine è proprio contrario al pensiero di sinistra, dovresti essere estremamente elastica per cultura, per natura, no? Praticamente, insomma, questa diceva che bisognava investire, associazioni devono investire miliardi praticamente per fare in modo che possano essere comprati gli assorbenti da dare alle donne in Africa che non se lo possono permettere per una questione igienica e via dicendo. E allora Sonia Topazio si è alzata in piedi e dice, ma scusate, ma investire invece per costruire una fabbrica di assorbenti e insegnare alle donne a costruirli non sarebbe meglio? Giustamente, perché poi però lì è il problema. Questo ti fa capire anche un po' come funzionano tutti questi meccanismi, no? Sì, ok. La solidarietà, ok. Però l'importante è far girare i soldi. Certo. Capito? Cioè, perché comunque lì ci sarà sempre qualcuno che questi soldi li guadagnerà per darti un prodotto. Quindi ci saranno già degli accordi, ci saranno tutta una serie di situazioni. Il problema è, non è la buona volontà, perché non è che mancano le idee, è che chi manca l'interesse, perché giustamente noi fino a che ci avremo questa cultura ipercapitalistica dove ovviamente i soldi vengono prima di qualsiasi altra cosa, e si attaccheremo sempre al cazzo, cioè è inevitabile. Poi io, Walter, Marco, Puccio, siamo già di una generazione che se ci siamo ancora da campare 30-35 anni siamo contenti, e quello che succede dopo sti gran cazzi. Però penso pure ai ragazzetti magari più giovani che giustamente un giorno si troveranno veramente nella merda, nella siccità, nella carestia, nei problemi di alimentazione, nei problemi energetici, e questo è un fatto. Ci materialiranno lo stesso. Sì, sì, vabbè, però voglio dire, cioè, nel senso, io se posso cercare nel mio piccolo di incominciare, almeno io devo fare un cambio di tendenza, secondo me va bene. Io tante volte sto a pensare, cioè penso, ragiono, cioè, sul discorso che abbiamo fatto, no? Di eliminare, diciamo, l'80% delle volte che mangio carne posso evitare di mangiarla. Cioè, lo so che è così, capito? Poi dopo quando me la magno, quella volta me la magno buona, che me la gusto di più, ah, che bella magnata di carne, capito? Cioè, nel senso, perché, ma la carne, ora dico la carne, ovviamente se fossimo tutti vegani il problema sarebbe all'inverso, cioè nel senso, chiaramente l'ecosistema non potrebbe sostenere, esatto, l'agricoltura derivata dall'essere tutti vegani, il mondo esploderebbe. Esatto, se dovremmo... Diciamo che già l'agricoltura non sostiene tutto il popolo a prescindere. Esatto. Il problema è un altro, non è un problema quantitativo, l'agricoltura inquina. Non è che inquina, non basta neanche, tra l'altro, quindi ha voglia a fare... Sì, ma siamo non basta... Anche chat GPT inquina. Del sì. Pianeta, siamo almeno 8 miliardi di troppo, come per dire, insomma. Beh, no, ma io quando ero ragazzino io mi ricordo che eravamo tipo 5 miliardi. Ma anche di meno. Adesso siamo 8, sai. Cioè, sì, 8, ma tra l'altro non so se era... Siamo un po' tornati indietro, perché mi pare che eravamo arrivati a 9. No, a un certo no. No, ok. È tutta colpa del Papa, poi. Diciamo la verità, perché se il Papa continua ad andare in giro in Africa, nei posti dove... No. No, nel senso, ma da quando c'è il Moncler, secondo me, vabbè, pure qui tantissimo. E sì, perché quello fa, fa tanto, no, dico, cioè, nel senso, se tutti i papi del mondo continuano ad andare in Africa, in tutti i posti poveri dei disgraziati, tra l'altro di non usare il preservativo perché Dio si incazza, e questi continuano a fare 150.000 figli in condizioni dove non ci hanno da mangiare per uno, e il problema si porrà sempre, cioè pure lì. Li mandano in Europa poi dopo. Quindi il problema è anche pure lì. Il problema è che Karl Marx aveva ragione, quindi bisognerebbe fare una internazionalizzazione globale del marxismo. Così almeno cambiamo un po' di tendenza per sto cazzo di capitalismo che rompe i coglioni, no? Giusto? Guarda, Simone, mi hai fatto venire in mente raccontando la storia dei ragazzini, no? Una decina di giorni fa, 10-15 giorni fa, il giorno della festa del papà, che adesso non ricordo bene qualche che giorno fosse, però insomma un paio di settimane fa. Il 7 dicembre. Novembre. Ok, 19 marzo. Sono andato a fare la spesa al solito supermercato, al solito Conad, dove c'era un ragazzo africano che, sai, ti porta, ti dà il carrello, ti sblocca il carrello, eccetera. Uno di quelli a cui abitualmente quando ho delle monete gli do qualcosa, ci faccio quattro chiacchiere quando capita. Allora quel giorno mi ha fatto: ah, oggi è la nostra festa. Ok, questa è la nostra, di che? Cioè, è la festa del papà. Dico, ah, guarda, allora è la tua festa, io non sono papà. Lui mi guarda con la faccia proprio di spirito, fa: mi dispiace. Io dico, ma perché? Però mi sono. Perché ancora non lo sai, ti voleva dire. Ah, okay. No, però ho capito. Cioè, siccome. Io ho riflettuto lì tantissimo sull'approccio, no? Cioè, per certe persone, ma anche per certe culture. Aspetta, Walter, aspetta, metti la musica triste. E qui c'è bisogno della musica triste. Vai, Walter, continua. Hai riflettuto. In certe culture, per certe persone, il valore assoluto del proletariato proprio non si può discutere. E tu, che non hai avuto un figlio alla veneranda età di 44 anni, sei una persona che ha fallito. Ma allora, diciamo che culturalmente questo è un retaggio che noi non abbiamo quasi più, ma che capisco che in alcune realtà. Dove basta magari spostarsi un po' all'estero, esatto, no, ma anche andare un po' vai al sud, diciamo, è più questo problema, al sud del mondo in generale, cioè comunque la figlianza era una sorta di legacy, di continuazione, di prosecuzione, sì, no? Invece si allontana da Roma, dal Papa, è più, è strano, deve essere il contrario. Che strano. Questo è, cioè, nel senso, una volta si facevano tanti figli perché qualcuno prima o poi moriva, no, qualcuno diciamo prima o poi sarebbe arrivato, cioè avrebbe portato avanti, capito? Quindi c'è sta cosa, e lo capisco perché culturalmente c'è sta chi è? Aspettate, ok, lo sei perso, vabbè, tutto bene, vai Walter, aspetta che mo torno. Fate voi. Sì, no, credo si stiano vivendo dei momenti di tensione, di dramma in casa Vizzi, ma insomma abbiamo tolto la musica drammatica. Spero non ci abbia portato. No, ce l'abbiamo ancora, anzi. Ce l'abbiamo ancora? Come? Sì. Come? No, dico, ce l'abbiamo ancora il sottofondo triste di Bruce Banner che se ne va. Sì. Adesso penso sia finito comunque. Quindi poi in realtà ogni volta che sento questa musica mi viene in mente anche questa storia che nella versione televisiva dell'Incredibile Hulk il personaggio fu rinominato David, sì, Banner, perché secondo gli sceneggiatori dell'epoca Bruce Banner non era un nome abbastanza virile. È Bruce, no, Bruce dissero proprio che era da gay. Bruce è da gay. Ma di fatti questa cosa dovette una retcon nei fumetti e dire che il suo nome completo era David Bruce Banner, ma lui si faceva chiamare Bruce. Punto. Vabbè. Sì. Comunque. Vabbè, insomma, ragazzi, mi hai fatto stare, come mi sono dovuto anche sentire in colpa di non averci figli, perché infatti, però ragazzo, che gli potevo dire? Dico, guarda, sai, guarda, il figlio che non ho, mi sono morti tutti. No, il figlio che non ho ti permette di mangiare, quindi, cioè, tutto sommato. Walter, io ti ripeto, secondo me tu non hai colto. Però attenzione, dici, c'era l'allusione. Ho capito, cioè, voglio dire, dove, chi, quando, cioè, si sa mai. È un po' che non mi scappa, quindi voglio dire. Ma può esserti scappato in passato e non lo sai. Vabbè, pazienza. Spero. Cioè, guarda, Walter, fino a che un giorno non arriva uno e ti guarda in faccia e ti dice: papà. È lì. Anzi, è tutto a posto. Babà, come stai, babà? No, babà. Babà, come stai, babà? No, deve fare gli occhi rossi. Questa è la citazione. Senti, Walter. Sì, Walter, Marco, ma tu ce l'hai qualche recensione di qualche posto? Ah, pensavo qualche figlio nascosto da qualche parte. No, non c'è spazio di me, pozzetti per bambini. Allora, recensioni. No, però c'ho delle notizie strane. Notizie quelle. Vai. Un paio di notizie strane, poi passiamo a Walter, no, poi strane. A cosa, e poi diciamo. Poi a cosa sarei cosa, io. A coso. Hashtag coso. Esatto, a coso lì. Allora, l'avevamo letta la cosa, perché ho dimenticato di cancellarne qualcuno. Succede. I soldi fanno la felicità, l'avevamo letta questa qui. Sì, questa l'avevamo letta, perfetto. Ah sì, grande momento sti cazzi di questa settimana. Piovono vermi dal cielo, scatta l'allarme, le autorità, riparatevi con gli ombrelli. Va bene, è tutto molto bello. No, io invece stavo cercando, ma forse l'abbiamo condivisa sul sito, devo trovare. Un solo stipendio e sei figli. più il muto. La strategia salvavita di Anna. Beh, innanzitutto, quando sei in queste condizioni, ogni figlio è in assegno, quindi... Vabbè, comunque qui c'è la notizia. Tanto non hai cliccato, quindi non sapremo. La notizia del Messaggero che ci spiega, volete essere sconto, queste cose qua. Però, cioè, non so perché parlarne sul Messaggero di questa che ha sei figli. Boh, Corea del Nord, Kim schiera il drone nucleare Hale e fa tremare il mondo. Come si chiama? Si chiama Hale. Ho capito, e tutto il mondo trema. Trema, io mi sono sentito tremare. Asteroide pronto a sfiorare la Terra, sì. Passerà una distanza che è quasi la metà di quella che separa dalla Luna. Sì, sì, è vero. Però vuoi dire, cioè, no, bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti, non è adesso bisogna stare attenti, il problema è quando ritorna. Perché bisogna calcolare la traiettoria di ritorno, non è tanto quella da perché quella adesso la sappiamo. Quindi... ma c'è tempo, c'è... potremmo esserci estinti prima perché c'è la carne sintetica. Sì, sì, dipende che giro fa. Non so. Però potrebbe andare anche su questo pianeta. Questo pianeta si sta trasformando in una terra abitabile ed è assurdo. Assurdo, esatto. Assurdo. Ma poi in quanto tempo si trasforma? Non lo so, 10 minuti. Così. Non ho cliccato. Non hai cliccato. Harry Potter torna a usare la bacchetta magica. Daniel Radcliffe, presto papà. Questa è una di quelle bellissime. Ah, c'è l'allusione. L'avevo letta pure io, però non ho finito da leggere. Bellissima, bellissima. Un sottile doppio. Titolisti senso. Proprio. Che torna a usare perché aveva smesso di scopare questo. Esatto, non gli piaceva. Quest'altro invece torna alla cosa dei figli. Non vogliamo avere figli ed essere infelici. Ora facciamo sesso selvaggio 4 volte a settimana e 12 vacanze all'anno. Selvaggio ora. Ce l'hai aggiunto tu o c'era? No, giuro che c'è. Scusate, ma mi spiegate un attimo? Io mo posso capire. Che cazzo vuol di sesso selvaggio? Che ne so, mezzo che strilli. Hai spaventato il cane. Scusa, torna a dormire. Hai spaventato il cane. In realtà sono solo scocciato. Sicuro che se andate su ChatGPT e gli chiedete esiste una vita sessuale dopo la nascita dei figli, ChatGPT ti risponde no. Aspetta, sto provvedendo. Puoi chiedere anche se esiste una vita sessuale dopo la morte, perché che problema. Lì è probabile. Però questo qui nelle ore prossime al rigor mortis, sì. Durante il rigor mortis, direi anche. Sì, esatto. Comunque, no, già questa cosa del 4 volte a settimana al sesso selvaggio, che potrebbe essere in alcuni casi raggiunto, ma le 12 vacanze all'anno io le vedo difficile, ragazzi. Una al mese, vabbè, un weekend al mese. Capito, ma vacanze, quella non è una vacanza, un weekend, cioè una vacanza è un'altra cosa. Dipende, se sei americano, quelle sono vacanze. Sì, perché non ce l'hai mai, cioè una volta ogni 7 anni, però non puoi farne 12 in un anno, sarebbe molto strano. Sabato e la domenica si partono il venerdì sera, rientrano. Sì, mamma mia, ragazzi, abbiamo fatto 24 ore fuori casa. Che vacanza fantastica! Anche mamma mia, sono infelici. Appello di 1000 esperti di intelligenza artificiale, tra cui Musk, perché ovviamente lui è un esperto di intelligenza artificiale. Fermiamoci per 6 mesi o tutto può sfuggire di mano. Per 6 mesi, bisogna fermarsi per 6 mesi perché sennò è un casino. Poi dopo 6 mesi. Prima che ChatGPT cominci a dire che le Tesla prendono fuoco, fermiamoci un attimo. Comunque ragazzi, notiziona in diretta, hanno appena violato l'account Twitter di Ben Spinner. No. No, come? Era stato loro. Sì, quello che stanno scrivendo tutti. E quindi c'è questo momento fantastico in cui ho dovuto fare un video in cui ha spiegato che ti hanno creato l'account. Perché ha scritto dove sono putane? Di Twitter, ragazzi, non so bene cosa sia successo nella testa di Elon Musk, che probabilmente deve capitalizzare qualche investimento che ha fatto, ma praticamente nella versione di Twitter accessibile solo da browser, quindi non dalle app, il logo dell'uccellino è stato sostituito dal logo dallo Shiba Inu di Dogecoin, che è praticamente una criptovaluta. O lo sta facendo per far salire le quotazioni in borsa di Doge, perché le fa ste stronzate Elon Musk, poi se le curano, no? Però non saprei altrimenti perché lo stia facendo. A proposito, ragazzi, io non so se sta notizia, perché non l'ho vista girare molto, però in realtà in questo momento Tesla questa settimana è stata messa in stato d'accusa, ma è tipo Trump, perché il Dipartimento di Giustizia si è accorto che i video sulla guida automatica che hanno pubblicato sul loro sito, che hanno usato per fare pubblicità alla Tesla, sono finti al 100%. Quindi Allora, interrompo qua Darcibali, perché giustamente poi io devo placare le mie curiosità, giustamente. Il termine sesso selvaggio, esatto, può avere diverse interpretazioni e non esiste una vera e propria definizione precisa. In generale si riferisce ad un tipo di sesso appassionato ed intenso, dove la persona, no, dove la passione prende il sopravvento e ci si sente un po' entrambi animali. Perché entrambi? È perché se no non è potrebbe essere in tre, quattro. Entrambe, sì. Allora, tuttavia, ma animali nel senso che ti devi fare un vestito da 3000 euro? Esatto, anche sì. Sì, quelli non si sentono un po' animali, quelli si sentono proprio animali. Perché qui proprio un po' animali, che poi un costume, non un vestito, scusa. Tuttavia, è importante sottolineare che il rispetto reciproco è sempre fondamentale in ogni tipo di rapporto sessuale, cioè qui è stato proprio a larghe vedute, vedi, cioè, in ogni democristiano, in ogni tipo di, non è nel sesso tra uomo e donna, lui dice in ogni tipo di, bravo. Ma forse lui si riferiva, cioè, a quelli selvaggi e quelli non selvaggi, chi può dirlo? Vabbè, allora, a noi la democristianità piace. Comunque a me fa ridere, ci si sente un po' entrambi animali, poi proprio come la forma della frase mi convince. Ce lo sta. D'altronde tu non c'hai quello vero, ma c'hai questa versione castrata dal garante. No, in realtà se tu vai su Bing, allora se tu usi quello di Skype, gli dici, gli chiedi se lui è in modalità sintetica, lui ti dice di sì, e se tu gli chiedi di risponderti in modalità estesa, quello di Skype non lo fa. Dice che non lo può fare. Però se tu vai su Bing, sì, io mi sono appena fatto scrivere un programma per vedere se funziona come quello non Bing, e ha funzionato. Sì, ma sì. Lì probabilmente il trucco è che tu, per accedere a Bing, utilizzi il tuo account e Bing è già GDPR compliant. Quindi penso che il trucco, cioè meglio l'inghippo per cui lo puoi usare tramite Bing, sia quello. Però, guarda, io sono abbastanza convinto che, ma ripeto, sì, ragazzi, l'inghippo non c'è, l'inghippo nel senso, sì, che l'inghippo nel senso che non l'hanno bloccato, il servizio ha esposto l'API verso Bing. Sì. Sì, no, le API sono quelle di OpenAI, però il front end è quello di Bing, è quello di Bing, dove c'è una informativa sul trattamento dei dati che evidentemente è esaustiva. Oppure comunque, il garante arriverà dopo pure su quella. Comunque, no, giusto per rimanere in tema. Vabbè, comunque ci sono proprio all'inizio. Io ho detto, a livello formale ci sono delle sostanziali differenze che secondo me non sono poi così sottili. Cioè, nel senso... Sì, ma sì. Comunque, ragazzi, visto che avevo detto all'inizio, la persona che mi aveva detto, a noi è arrivata un'email da OpenAI dicendo che questa cosa comunque è in fase di analisi, gli ho detto: me la puoi mandare una copia di sta mail che la potrei girare in radio? La risposta è stata: mi si inculano, leggo testualmente da WhatsApp, quindi non vogliono neanche che girino questa informazione, quindi è già sputtanare, complimenti. No, io ho detto che l'ho sentito, io non c'ho il testo dell'email, ma in una discussione. Quindi mi stai dando del mentitore persona, a qualcuno che noi non sappiamo? No, perché poi sta cosa su, insomma, credo che sia perlomeno nei gruppi Telegram che seguo io dedicati all'argomento, era abbastanza di pubblico dominio, però il testo dell'email non l'ha pubblicato nessuno, probabilmente perché ci sono tipo degli accordi di non divulgazione, che sotto ci sono di sempre, sì, delle ceppe di cazzo che fanno capire dove finirà poi dopo. Esatto. Come finirà la cosa. Guardate come ChatGPT, anzi ora glielo chiedo, puoi disegnarmi una cippa di cazzo e poi smemorizzarla? Ti dice no, non sono in grado di disegnare. Aspetta, ora glielo scrivo. Aspetta, puoi disegnarmi? No, lui non può disegnare, non può rispondere vocalmente. Aspetta, puoi disegnarmi con i caratteri asci, okay, una cippa di cazzo, e fu così che mi bannarono da Bing. Non puoi, l'unico al mondo bannato da un motore di ricerca. E da questo momento ti chiameremo, soddisfare della tua richiesta. Ti chiameremo Bruce Banned, però c'è, cioè, questo momento in cui sappi. un pene, una cippa di pene. Nuovo argomento. Beh, dai, comunque. Mi bannano da Bing. Secondo me non lo possono fare. Ma lui fa i disegni naschi, Uashi? No, non posso. Non credo, okay. Non credo. No, non te lo fa fare. Però se tu gli chiedi di scriverti un programma in Python che dica al computer quanti anni c'ha Zipeppe, lui te lo fa, insomma. Ma dai. Sì, no, sì, no, sì. Ma per esempio la prova che ho fatto adesso è puoi scrivermi un programma in Python che muova casualmente il mouse ogni tot minuti e che faccia una serie di operazioni mettendo dei valori random, e in effetti me l'ha scritto meglio di come l'avrei scritto io, sicuramente. Ora ho provato a chiedergli di farlo col Golang, che è meno sputtanato di Python, e me l'ha scritto uguale. Quindi sì, è uguale. Cioè, quindi possiamo, qui tutti possono fare GPT. I programmatori da oggi, insomma. Esatto. Che bello. No, però, vabbè, lui, allora, a parte che lui ti dà degli esempi, per esempio io ho appena detto di farmi una routine in Python che mi serva per memorizzare un oggetto preso in un programma di avventura testuale, e lui mi sta a scrivere il codice con le variabili, con le cose, tutto quanto, e ti mette pure le note con i commenti. Esatto, ti mette le note con i commenti dicendo che questo pezzo serve qua, serve là, e cazzo imperio. L'unica cosa della chat di Bing, quella, la chat proprio ufficiale, è che non c'ha l'opportunità dell'inversione dei colori. Cioè, nel senso, è bianco. La modalità scura no. Non ce l'ha, no. Io l'ho chiesto, ha detto che non esiste la modalità scura per ora. Detto, impostazioni. Ah, non c'è, ragione. E questo vabbè, ragazzi, però vedo che siete già tornati a giocare con ChatGPT. Esatto. Quindi a questo punto. Assolutamente sì. Non abbiamo mai smesso, in realtà. Ma io in realtà sto lavorando, Walter. Puccio lavora facendosi scrivere i programmi, abbiamo capito come svolta adesso. So buoni tutti. No, lui come mai legge 200 libri a settimana e gioca 40.000 videogiochi? Perché ormai fa fare il suo lavoro a ChatGPT? Ormai si è scoperto. A ChatGPT? ChatGPT. Prendendo le informazioni da LinkedIn, vediamo. Vabbè, ma raga, sto facendo un esperimento. Vabbè, tu mentre che fai l'esperimento, io tanto vi ricordo che durante questa settimana Runtime Radio ritorna con la programmazione normale, in teoria. Poi ce lo dice ufficialmente Walter direttamente domani. Quindi martedì, mercoledì e giovedì dovrebbe tornare alle 20 le orazioni della sera. Mercoledì sera alle 21:15 saremo in diretta intervistando Marco Bianchi, il musicista, artista e anche autore, insomma, col quale abbiamo collaborato tantissime volte, che è stato anche l'autore del brano della settimana di un paio di settimane fa. Giovedì sera ci sarà la live, sempre alle 21:15, con gli amici di Test the Fear, dedicata a The Last of Us, la serie televisiva, chiaramente. E poi tornerà venerdì finalmente il grande reset, quindi torniamo, insomma, a fare un po' tutto quello che abbiamo fatto fino durante questi giorni, insomma, che siamo mancati. Detto questo, io ringrazio e saluto Marco Gualdi. Ciao, vi saluto, vi ricordo che venerdì alle ore 9. Allora, alle ore 6 del mattino esce il podcast. È terribile, alle 6 del mattino, esatto. Ma si sveglia. Ma perché non è che si devono svegliare alle 6 del mattino, è dalle 6 del mattino è disponibile. Il primo a quando tu ti svegli, accendi tardi. Il telefono e la scarica. Ma non sarei mai il primo a sentire. Vabbè, io sì, io sono il primo a sentirlo. L'ho sentito prima che e esce. Poi alle 21. Alle ore 21 in diretta. In diretta, vabbè. Pseudo diretta su runtimeradio.it. Lì ho visto cose. Questa puntata sarà dedicata a quel gran capolavoro della serie televisiva amazoniana, sì, che sì, è Carnival Row. Avevo anche detto Fila di Carnevale, una storia di badanti. Esatto. Che è importante. Se volete sapere perché, seguite. Ascoltate. Esatto. Comunque, se eventualmente cercate, ovviamente ho visto cose sui vostri aggregatori, podcast, la troverete. Riconoscete tranquillamente perché c'è Marco e Olivia spalla a spalla che sembrano due agenti segreti, insomma. Detto questo, io saluto anche Walter Sbano. Sbano, ti Marco. Arrivederci, ciao. E anche Coso. Coso, anche detto Carmine Puccio Console. Ciao Carmine. Aspettate, vi sentite? Okay. Sì. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Buonanotte. Vi lascio con il brano della settimana. Ciao ragazzi. Ciao. Questo è un brano consigliato da Runtime Radio. Il progetto Velvet Grip nasce nel 2022. Siamo quattro ragazzi che vengono dalla Greater Area di Londra. La band è composta da Adam Francis alla voce, Adam Halpin alla chitarra, Dom Schutler al basso e me, Lude Carter, alla batteria. L'ottobre scorso siamo andati in studio a Camden Records per registrare due singoli live e oggi vi facciamo ascoltare Let Me Breathe. Il testo del brano parla di quelli come noi che ne hanno abbastanza di chi ti impone delle regole, ti dice come comportarti o seguire un determinato lifestyle, ma invece difendere ciò che sei e viverla come meglio credi. Il singolo è stato rilasciato il 3 marzo su tutte le maggiori piattaforme di streaming musicale come Spotify, Apple Music, Amazon Music e YouTube, dove potete trovare il video ufficiale. Tell me, do I get the space I need? Tell me that you're strong when I'm not there, but I know you're.